Letture di Radio 24. Brianino ha negato l'utilizzo della sua musica alla compagnia di danza del coreografo israeliano Oad Naharin, che ha inaugurato Torino Danza, la kermesse dedicata al ballo ospitata dal capoluogo piemontese. Motivo? Brianino ha scritto una dura lettera al coreografo e alla compagnia in cui si diceva onorato, ma denunciava il suo grave conflitto interiore, nato dall'utilizzo della musica per uno spettacolo di cui l'ambasciata israeliana, e quindi il governo israeliano, è sponsor. Dato che sostengo la campagna BDS da ormai diversi anni, questa è una possibilità inaccettabile per me, continua Ino. La BDS è la campagna palestinese per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele. Il musicista è anche firmatario, assieme ad altri 1700 artisti in Gran Bretagna, della dichiarazione Artisti per la Palestina, impegnati a non intrattenere rapporti con il governo israeliano. Tempo fa, due dei fondatori dei Pink Floyd, Roger Waters e Nick Mason, avevano scritto ai Rolling Stones una lettera aperta chiedendo a Mick Jagger e al suo gruppo di cancellare il concerto che avevano in programma in Israele, il primo della loro storia, in segno di solidarietà con il popolo palestinese e la loro battaglia contro l'occupazione israeliana. Le cose, per fortuna, non sono andate come speravano i Pink Floyd. I Rolling Stones hanno suonato a Tel Aviv, ma hanno anche posticipato l'inizio del loro concerto di 45 minuti per permettere agli ebrei ortodossi che osservavano la festività dello Shavuot, durante la quale non è permesso guidare o maneggiare soldi, di raggiungere in tempo il concerto. Ancor prima, la scrittrice e attivista BDS Alice Walker, vincitrice del premio Pulitzer per il libro Il colore viola, aveva scritto una lettera alla cantante Alicia Keys dicendo: «Mi farebbe soffrire sapere che ti stai mettendo in pericolo, suonando in un paese dove vige l'apartheid e che molti artisti globali stanno boicottando». Per fortuna, la Keys ha suonato in Israele, che, non dimentichiamolo, è l'unica democrazia del Medio Oriente. Non risulta che Brianino si sia mai scagliato contro la Siria o l'Iran e abbia detto parole di riprovazione contro l'ISIS. Persino il ministro della giustizia inglese, Michael Gove, si è sentito in dovere di scagliarsi contro il movimento BDS che boicotta in tutto il mondo Israele, definendolo la nuova manifestazione di un vecchio odio che avremmo pensato sarebbe scomparso da questa terra per sempre dopo il crimine unico della Shoah. Sarà anche un grande musicista, ma Brianino maschera da antisionismo il suo profondo antisemitismo e ricorda, ahimè, le campagne naziste di boicottaggio. Non comprate dagli ebrei, se vi piace però, comprate i dischi di Brianino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Aldo Grasso L'antisemitismo mascherato di Brianino, dal magazine 7 del 16 settembre 2016. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Letture di Radio 24. Nelle regioni dove l'inizio del nuovo anno scolastico è arrivato più tardi, le vacanze estive sono ormai solo un lontano ricordo. Ma nei ricordi di Andrea Vitali, romanziere con oltre 3 milioni di lettori, il primo giorno di scuola è quello che segnò il suo ingresso al liceo classico. E mamma mia, quant'ero brutto e scombinato e impacchettato, anche allarmato. Mi spiego. Non così brutto da vedere, forse, non brutto in senso proprio, insomma, ma brutto da attirare qualche sguardo, troppi per i miei gusti e la mia ereutofobia. Ma brutto poiché ero e mi sentivo scombinato, come se mi avessero preso alla sprovvista per poi mettermi lì senza spiegarmi il perché e soprattutto ciò che dovevo fare. Avevo lasciato l'ovile del paesello e la bambagia di casa. Nessuno mi aveva detto che sarei rimasto solo ad esplorare territori oltre confine. Hic sunt leones, dicevano gli antichi delle terre incognite. E io mi trovavo lì adesso, senza nessun riparo, privo di armi per difendermi, esploratore senza viveri, difese e inoltre inadeguato nell'abbigliamento. Impacchettato, come dicevo sopra, dentro una giacca e una cravatta che volevano essere omaggio al tempio dentro il quale sarei cresciuto in scienza e coscienza, mentre intorno a me una certa aria, aria di rivoluzione, cantava Franco Battiato, aveva accorciato gonne, sformato giacche, messo all'indice cravatte da una parte. Dall'altra, invece, aveva ritualizzato il trend V dell'immancabile buona società, dei suoi virgulti, dandisti, se si può dire, più che mai molto omogenei nell'uso dei colori e nell'ascolto delle canzoni dei Beatles. Tra quei due fuochi, in mezzo, in quello iato, crepaccio o purgatorio, io e pochi altri come me, ambite prede dei primi, disastrosi compiti in classe. Certo, non ero solo a condividere quella condizione. Insieme con me, ma muti come me e spaesati, c'erano altri, disertori o sbandati che fossero, alcuni dei quali, scoprii più tardi, condividevano il mio destino e portavano sul groppone il peso dell'onere e dell'onore della scuola da cui provenivano. Unici ad aver sostenuto e superato l'allora facoltativo esame di latino alla barriera della licenza media, si erano da sé offerti per portare la bandiera della scuola di provenienza tra le mura di quella che pretendeva il passepartout del latinorum per iscriverti nelle sue file. Mi chiedo, senza quegli anni del liceo, sarei quello che sono? Quello che ho voluto essere? O perlomeno quello che tento di voler essere? Io mi rispondo no. Si obietterà che ormai, allo stato di cose ed età, anche in caso di risposta contraria ci sarebbe ben poco da fare. Sono d'accordo, ma insisto nella risposta no. Ed evito così la tiritera fuori tempo ormai, visto che il popolo dei discenti è già da qualche giorno chino sulle sudate carte, secondo cui la scuola fa bene, studiare aiuta, e anche se non sembra, ha effetti collaterali che vengono fuori col tempo. Così, facendo finta di non dirlo, l'ho detto. E forse anche tutto ciò è un po' ossimorico. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Andrea Vitali, La campanella che mi cambiò la vita. Per me la scuola cominciò al liceo. Dal quotidiano La Verità del 20 settembre. Frances Ogson Burnett è nota soprattutto per i suoi romanzi per ragazzi, dai quali sono stati tratti film di successo. Il piccolo Lord, Il giardino segreto, La piccola principessa. Pochi sanno però che la Burnett è stata anche un'apprezzabile autrice di romanzi rivolti a un pubblico adulto, due dei quali sono stati recentemente tradotti in italiano e pubblicati dalla casa editrice Astoria, Un matrimonio inglese e L'imprevedibile destino di Emily Fox Seton. Quest'ultimo racconta la storia di una donna di buona famiglia, ma che vive in condizioni di indigenza. Nell'Inghilterra di inizio secolo scorso, le possibilità di trovare un buon lavoro per le donne che si trovavano nella sua condizione sociale erano scarse. E a 34 anni, Emily si rende conto che le possibilità di cambiare vita grazie a un buon matrimonio sono ancora più esigue. Ma l'intelligenza e i buoni sentimenti di Emily riescono a conquistare Lord Walderhurst, un nobile di mezza età ambito da tutte le ragazze in cerca di marito. La vita di Emily cambia quando, grazie al matrimonio, da umile dama di compagnia diventa una ricca marchesa. La sua condizione sociale cambia, ma non il suo carattere umile e generoso, che tuttavia non è sufficiente a proteggerla dalle trame di Alec, cugino di Lord Walderhurst, che mirava all'eredità e che da questo matrimonio si sente derubato di un patrimonio che ormai considerava suo di diritto. Anche Alec è un diseredato, ma a differenza di Emily non accetta il suo destino. Rifiuta l'idea di dover lavorare per condurre un'esistenza che non ritiene all'altezza del suo rango ed è pronto ad usare qualunque mezzo per entrare in possesso del denaro di suo cugino. Durante un viaggio all'estero di Lord Walderhurst, il cugino Alec e la moglie anglo-indiana Esther cercano più volte di uccidere Emily, ma i tentativi falliscono. Anche il tentativo di fare annegare Emily non è riuscito. E la notte successiva Esther torna a domandarsi se quello che lei e suo marito stanno facendo sia giusto. Una riflessione quanto mai attuale sull'odio che nasce quando si desidera qualcosa o qualcuno che non si può avere. Esther se ne stava al buio,

riprendono a sognare grazie alle nuove bocche di rosa, le badanti provenienti dall'est, e le donne del paese si arrabbiano e promettono battaglia. Lei lo faceva per passione. In alcune piazze del sud troverete ancora uomini temprati da almeno una guerra, ma li troverete a battersi il petto in mutande all'incirca senza mostrine da reduci di nulla, dietro il gas di scarico di certi pullman in viaggio verso le frontiere dell'est. Beata ingenuità. Però ringalluzziti, resettati come un sistema operativo che riprende alla grande. Inutilmente, perché alla fine è sempre la stessa storia. A Milano, l'imprenditore meneghino che si perde la moglie ucraina a luglio e se la ritrova a settembre su Instagram a New York, con un altro tipo, non ha scuse. Hai sposato una miss. Da quei posti lì arrivano valchirie che nemmeno i servizi segreti riescono a fregare. Figuriamoci l'amore. Macchine belliche, tutto qui. A Palazzolo, anni fa, ci fu la rivolta di un paese. Avete presente l'aria del continente di Martoglio? Peggio. Non erano ballerine del Tabarin, erano russe, polacche, rumene, donne dell'est, insomma. Fu un gran caos. Avevano tutti perso la testa, forse. Il giovedì e la domenica, nella piazza del municipio per i signorotti del posto, era un piacere nuovo passeggiare e ossequiare di qua e di là. Le badanti erano in giro. Con la vocina intinta di virtù, bionde e cerulee, salutavano molto timide, molto discrete, o esortavano con remissività. «Lui, signore, è molto buono con me. Siedi con me, signore!» E il pomeriggio assumeva il crepuscolo romantico di taluni romanzi delle sorelle Bronti. O i colori della steppa. Così drammatico e affascinante il rendezvous. E veniva quasi voglia di cambiarsi i connotati, a entrare nei pensieri dei signorotti del paese, coniugati immancabilmente con donnette al confronto. Così doveva sembrare a costoro la sera, chiusa la parentesi esterofila, tornando a casa. Cambiarsi i connotati. Tupè rossicci invece che spaghi radi e bui o mustacchi da caballero. Seduti al tavolo con l'altra, cioè la meschina verità, la moglie. Scura e pelosetta e anche rachitica al confronto, proiezioni sbagliate e ingiuste. Le donne del paese, le mogli, un bel giorno si sono proprio arrabbiate. Immaginate la piazza del municipio, le donne, non donnette, attraversarla imperiosamente, riparare imperiosamente nell'unica caserma dei carabinieri e denunciare. Sì, signore, denunciarle tutte, romene, polacche, russe, chiunque pronunciasse un qualsivoglia tac in luogo di un sì, chiunque indossasse trine platinate e facesse la badante con qualche problema a comunicare in dialetto. Una taglia sulla testa. Sei straniera? Crepa. Simbolicamente, intendiamo. Vi fu questa specie di rastrellamento e non sappiamo se alla stazione andarono tutti dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. O se la beghina, non potendo dare più il cattivo esempio, avesse in soldoni azzeccato il consiglio giusto. Cioè, i mariti poi sono tornati a casa, finito di aspettare che la corriera tornasse indietro. Corriere, che non è più tornata indietro. Se ne parte la primavera. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Veronica Tomassini, Badanti, le nuove bocche di rosa, dal Fatto Quotidiano del 20 settembre.